Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sull'aereo caduto ai comandi c'era il copilota, riferisce il procuratore di Marsiglia. È stato lui ad attivare la discesa. La porta della cabina era chiusa dall'interno. Il comandante, rimasto fuori, avrebbe addirittura tentato di sfondarla. Sul decreto antiterrorismo interviene il governo. Stralciate le norme che consentono un accesso quasi indiscriminato ai computer. Corruzione, il provvedimento è in Senato. Orlando, chi commette questo reato tradisce il paese. Il Movimento 5 Stelle chiede a Grasso di ritirare la firma dalla legge. Nuove tensioni sulla legge elettorale invece. Morta nella notte una delle 10 persone ferite nell'attentata rapina ad un supermercato nel napoletano. Arrestati gli autori erano 2 carabinieri in licenza. Aida e Rei dell'Arabia Saudita nello Yemen, partecipano anche Giordania e Sudan. Rabbia dell'Iran che chiede la cessazione immediata. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e poi durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. Iniziamo andando a Marsiglia. Alors que là on est au-dessus des montagnes quoi, on n'est pas bon. E la voce che sentite è quella di Brice Robin, che è procuratore della Repubblica di Marsiglia, che sta tenendo una conferenza stampa sulla vicenda dell'aereo caduto, l'aereo che viaggiava tra Barcellona e Düsseldorf ed è precipitato in Francia. Stanno emergendo dei nuovi dettagli, dettagli per certi versi inquietanti. Vediamo di fare il punto al momento con Adriana Fracchi. Adriana. Sì, buongiorno. Come dicevi tu, Brice Robin ha spiegato che il pilota di nazionalità tedesca, perché era originario di Montabaur in Renania-Palatinato e con 630 ore di volo in carriera, il copilota, dicevamo, è rimasto solo in cabina e ha attivato i bottoni per azionare la discesa dell'aeroplano. E il procuratore di Marsiglia ha aggiunto anche che sembrava vivo fino al momento dell'impatto e voleva quindi distruggere l'aereo e c'era la volontà deliberata di farlo precipitare. Per gli inquirenti, ha detto il procuratore di Marsiglia, l'interpretazione più plausibile è che il copilota si sia rifiutato di aprire la porta della cabina al comandante e abbia azionato il bottone per appunto comandare la perdita di altitudine e andare a schiantarsi. Altri dettagli inquietanti che sono emersi da, appunto, dalle prime analisi della scatola nera, che i passeggeri urlavano nei momenti finali dell'impatto e che poi un altro dettaglio che riguarda sempre il copilota, che appunto come abbiamo detto è di nazionalità tedesca e non è segnalato, ha detto il procuratore di Marsiglia, come possibile terrorista. Comunque quindi in queste ore l'ipotesi più accreditata sembra quella o del suicidio o dell'attentato. La compagnia di volo tedesca Germanwings terrà comunque anche lei una conferenza stampa alle 14.30 a Colonia. Quindi sentiremo i nuovi dettagli anche dalla compagnia. Ricordo che sul luogo del disastro stanno arrivando le famiglie delle 150 vittime provenienti soprattutto da Germania e Spagna. Sono stati allestiti tendoni da campo per le camere ardenti destinate appunto a accogliere i familiari e a preservare la loro intimità. Ricordo infine l'ultima cosa, che 72 vittime erano tedesche, tra queste 2 neonati e 16 liceali di Altern e 2 cantanti d'opera oltre all'equipaggio, poi 50 vittime erano spagnole, gli altri passeggeri invece erano di varie nazionalità: Argentina, Australia, Belgio, Colombia, Danimarca, Gran Bretagna, Israele, Giappone e Marocco. Ed è tutto. Grazie per il momento ad Adriana Fracchia. Su tutto questo torneremo tra poco, torneremo a sentire un esperto, come spesso stiamo facendo in questi giorni di voli, tra l'altro una persona che si trova in questo momento proprio a Marsiglia, dove sta continuando la conferenza stampa del procuratore e sulla quale vi forniremo ulteriori dettagli nel corso di Effetto Giorno. Nel frattempo passiamo alle altre notizie, iniziando però da una notizia che riguarda proprio le compagnie low cost, anche se non collegata direttamente, anzi tutt'altro. Un aereo della Vueling partito da Barcellona e diretto a Monaco è rientrato questa mattina poco dopo il decollo e ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di El Prat dopo aver registrato un problema meccanico Il pilota ha detto di aver sentito odore di bruciato. Il rientro e l'atterraggio di emergenza sono procedure abituali di precauzione, secondo fonti della stessa compagnia. Veniamo alla politica intanto, alla legge sulla corruzione innanzitutto, che approda in Senato, mentre sulla legge elettorale si addensano tensioni. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Dopo la discussione generale svoltasi ieri, i lavori a Palazzo Madama sul disegno di legge anticorruzione sono ripresi questa mattina con le repliche del relatore e del ministro della giustizia Orlando. Ed è un appello all'unità quello rivolto dal ministro. Non sconfiggeremo la corruzione se non riusciremo a dare un segnale che deve caratterizzare tutte le forze politiche, ha detto Orlando. Ed ancora in questo momento storico, chi si fa corrompere tradisce il paese. La corruzione è un'emergenza. Sono iniziate intanto le prime votazioni sul testo, che, lo ricordiamo, andrà al voto finale al Senato il prossimo 1 aprile. Il provvedimento passerà quindi alla Camera. Da segnalare la tregua tra PD e Nuovo Centrodestra, tregua che dovrebbe reggere sulla corruzione, decisamente contraria invece alla posizione del Movimento 5 Stelle, di netta chiusura rispetto a ieri, quando sembrava si potesse arrivare ad una convergenza dei grillini. Di Maio oggi commenta: Grasso dovrebbe togliere la sua firma da quel disegno di legge, non è una legge anticorruzione, è stata svuotata e svilita. Altro capitolo, quello della legge elettorale. Renzi accelera sull'Italicum lunedì la direzione del PD, obiettivo del Premier approvare il testo entro aprile e comunque prima delle regionali di fine maggio. Sulla sua strada, oltre alle opposizioni, anche la minoranza interna, senza modifiche io e molti altri non la voteremo, dice Fassina al quotidiano online Affari Italiani. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto saltano a quanto pare le norme sul web, quelle che avevano suscitato tante critiche, dal decreto antiterrorismo. L'intervento di Palazzo Chigi mette fine alle polemiche sul decreto antiterrorismo. Sarebbe stato proprio il premier Renzi oggi a chiedere e ottenere lo stralcio del contestato emendamento che prevedeva l'acquisizione di dati da remoto nei computer dei cittadini. La misura era stata introdotta nel testo durante il suo esame in commissione alla Camera. Vista la sua delicatezza e le implicazioni con la privacy, la questione verrà affrontata in maniera più articolata nella legge sulle intercettazioni, ha spiegato stamattina il vice ministro dell'interno Bubbico, comunicando la richiesta del governo. Ad auspicare la ricerca di un punto di equilibrio fra sicurezza e privacy stamattina era stato anche il ministro dell'interno. Alfano ha anche spiegato che con il decreto si aumenta la capacità di intercettare i flussi di comunicazione sul web, ma soltanto in riferimento ai reati di terrorismo. L'aula della Camera nel frattempo oggi ha iniziato l'esame del decreto con la discussione e il voto sugli oltre 230 emendamenti presentati. Governo e relatori hanno espresso parere contrario su tutte le proposte di modifica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torniamo brevemente a Marsiglia. Ancora in corso, come sentite, la conferenza stampa di Brice Robin, che è il procuratore della Repubblica di Marsiglia, sulla vicenda dell'aereo caduto. Gli ultimi dettagli che stanno emergendo in questi minuti, che sono in corso indagini sul copilota, l'uomo che ha deliberatamente a questo punto fatto precipitare l'Airbus della Germanwings. Informazioni, ha detto il procuratore di Marsiglia, le riceveremo dalle autorità giudiziarie tedesche, ma l'uomo di nazionalità tedesca non era segnalato come terrorista, come già vi segnalavamo nella diretta precedente. I passeggeri, ha riferito ancora il procuratore, si sono accorti all'ultimo momento di quello che stava succedendo e si sono messi ad urlare. E ancora le agenzie riportano dichiarazioni raccolte da un pilota di A320 con un'esperienza di volo di 12 anni. La manovra di discesa controllata, anche se non molto, potrebbe essere stata eseguita dal copilota per aggirare i numerosi computer di bordo che avrebbero automaticamente corretto la quota. E qua si spiegherebbe quello che vi raccontavamo nel primo giorno, ossia la velocità di discesa piuttosto anomala, che non era né un precipitare né un tentativo di atterraggio di emergenza. Ci torneremo tra poco su tutto questo. Intanto andiamo a Napoli, dove è di un morto e 9 feriti il bilancio della rapina di ieri sera. Chi ha sparato, dove, quando, chi era armato e chi no? Sono ancora molti i punti da chiarire nella vicenda della tentata rapina al supermercato di Ottaviano nel Napoletano. Rapina finita con un morto e 9 feriti dopo scene da Far West con sparatorie tra la folla, inseguimenti in auto e speronamenti. A carico dei due carabinieri in licenza fermati, i presunti rapinatori, entrambi in forza al battaglione Mestre, piantonati in ospedale e già sospesi dall'arma, oltre a quella di rapina aggravata si aggiunge l'accusa di omicidio dopo la morte nella notte di Pasquale Prisco, 28 anni, il figlio del proprietario del supermercato. Voleva farsi giustizia da solo, con altri 7 tra parenti e dipendenti si è lanciato nell'inseguimento dei rapinatori. Una corsa folle proseguita per alcuni chilometri sulle strade del Vesuviano fino a quando non sono riusciti a speronare l'auto dei fuggitivi. Poi l'epilogo con la sparatoria costata la vita al giovane. Un episodio, questo, che si aggiunge all'allarme per il rione del quartiere di Ponticelli, a poche ore di distanza dal blitz di carabinieri e polizia che ha portato a decine di arresti, ma che non ha fermato la guerra tra clan nella zona. Un clima da far west, con un territorio in mano alla camorra e alla violenza, documentato dalle immagini degli inquirenti, all'ordine del giorno di una riunione d'urgenza del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche su questo tema torneremo più avanti. Andiamo all'estero, intanto in Turchia, dove questa mattina è esplosa una bomba uccidendo una persona, in diretta da Istanbul, Marco Barbonaglia. Buongiorno Marco, di che tipo di attentato si tratta? Buongiorno Simone, la bomba è esplosa ieri sera verso le 19.30 davanti alla sede di questa rivista filo-islamica Adamlar, nel quartiere di Caetane, quindi a nord-ovest di piazza Taksim. Come dicevi, è morto questo giornalista, 45enne Ünsal Zor, morto sul colpo, mentre altre 3 persone sono rimaste ferite. Secondo la ricostruzione della polizia, l'ordigno sarebbe stato piazzato precedentemente e sarebbe esploso non appena la porta della redazione è stata aperta. Le ultime notizie parlano ora di una rivendicazione via Twitter da parte di un gruppo chiamato Al-Klaren Savun Mase Birli, che suona qualcosa come Unione per la difesa della gente. E testualmente hanno scritto: Ademlar è stato punito per aver legittimato i massacri. Se continueranno così, continueremo anche noi con gli attacchi. A questo proposito bisogna precisare che il mensile Ademlar è vicino ad un gruppo chiamato con questa sigla IDDASI, un gruppo che appoggia l'ISIS fuori legge in Turchia, è incluso nella lista delle organizzazioni terroristiche sia da Stati Uniti che da Unione Europea. Gruppo che oltretutto nel 2003 aveva rivendicato insieme ad Al-Qaeda gli attentati contro 2 sinagoghe, una banca e il consolato britannico, che avevano provocato la morte di 57 persone. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul per questi aggiornamenti. Ci spostiamo nello Yemen, dove l'Arabia Saudita ha avviato una serie di raid aerei suscitando la reazione dell'Iran. L'analisi è di Alberto Negri. In Yemen tra sciiti e sunniti è guerra su larga scala, al punto che il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif da Losanna, dove è impegnato per i negoziati sul nucleare, ha chiesto la sospensione dell'intervento militare saudita e arabo contro i ribelli sciiti Houthi. Dopo aver lasciato prosperare per anni gruppi terroristici come Al-Qaeda e il Califfato, l'Arabia Saudita, con l'appoggio di una coalizione di arabi sunniti, ha deciso di bombardare la capitale e i ribelli che avevano raggiunto lo strategico porto di Aden, dove, nello stretto di Bab el-Mandeb, passa il 40% del petrolio medio orientale. Gli Stati Uniti sostengono l'offensiva per una ragione principale: sono stati costretti a chiudere le basi militari e a rinunciare alla guerra con i droni contro Al-Qaeda. I sauditi e i loro alleati non parlano di attacchi aerei né ai qaedisti né ai militanti dello Stato Islamico. L'unico vero obiettivo è far fuori gli sciiti per rimettere in sella il deposto presidente Mansour Hadi. Adesso le incognite sono 2. La prima, se l'Iran interverrà direttamente a sostenere i ribelli. La seconda è legata alle operazioni sul campo di battaglia, che inevitabilmente coinvolgono non soltanto le milizie ma anche la popolazione civile in un paese già devastato e in disgregazione. Torniamo a Marsiglia. Ho aimé les avoir en temps réel parce que je veux faire gagner du temps à mon enquête, c'est tout. C'est un regret maintenant de savoir le reste, vous savez. E ancora il procuratore di Marsiglia, Brice Robin, sulla vicenda dell'aereo caduto. Stanno emergendo ulteriori dettagli in questi minuti. L'aereo era azionato con il comando automatico, cioè c'era il pilota automatico. Il comandante ha detto al copilota: ti lascio il comando, ed è andato in bagno. In quel momento appunto la porta è stata chiusa, il comandante è stato lasciato fuori e il copilota ha deciso sostanzialmente di far precipitare l'aereo. Su questo, come vi dicevo, torneremo tra poco. Intanto andiamo a parlare di un'altra azienda italiana che rischia di passare, e che probabilmente passerà nel ad Oriente, in particolare in India. Parliamo di Pininfarina, che questa mattina, in una nota diffusa su richiesta della Consob, ha detto che c'è un interesse manifestato da Mahindra. E Mahindra, parliamo di indiani. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti, sì, appunto, come hai detto, c'è questo interesse, ci sono questi contatti in corso, anche se ha detto Pininfarina, non è detto che vadano a buon fine, e comunque verrà fatto un comunicato quando la cosa è firmata. Il rischio c'è, nel senso che Pininfarina, ricordiamolo, è in crisi finanziaria da parecchi anni, ha firmato un accordo con le banche già nel 2008 e le azioni, che prima erano in mano alla famiglia, sono ora in mano a 13 banche creditrici. E la vendita servirebbe appunto in parte a ripianare questo debito. L'azienda nel frattempo ha continuato a funzionare, nel corso degli ultimi anni ha totalmente cessato l'attività produttiva che prima effettuava per conto dei più grandi costruttori europei nel corso della storia, dalla Fiat alla Peugeot alla Ford alla Volvo, per concentrarsi sulla progettazione e il design, cioè in sostanza i mestieri originali del gruppo. Si è moltissimo ridotta anche come organico, è scesa sotto le 700 persone, mentre erano più di 2500 ai tempi d'oro, e è tuttora, appunto, possiamo dire, in attesa di una sistemazione. Nel frattempo naturalmente ha continuato a lavorare, sono quasi tutte Pininfarina, anche le ultime bellissime Ferrari è Pininfarina, firmata Pininfarina, la Maserati quattro porte. È questo know-how che gli indiani puntano ad acquistare per rafforzare, diciamo, la propria attività autoveicolistica, che per ora è concentrata essenzialmente nel settore dei SUV e dei pick-up, quindi dei veicoli commerciali. Grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Noi veniamo ad una sentenza che fa e farà molto discutere, quella che riguarda l'ex portiere di una squadra tedesca. 2 anni di contratto per ottenere un contratto a tempo indeterminato. Dario Ricci, che succede? Sì, buongiorno Simone. Beh, davvero particolare la storia di Heinz Müller, 36 anni, che è portiere del Mainz, squadra della Bundesliga tedesca, che aveva chiesto il rinnovo del contratto al suo club, e anzi pretendeva un contratto a tempo indeterminato. Il club aveva tutt'altro intenzione, voleva interrompere il rapporto col pur bravo Müller, come confermano le sue parate che abbiamo visto un po' sul web. E allora a quel punto Müller ha portato la società tedesca in tribunale, citazione in giudizio che è stata un po' sottovalutata sia dal Mainz che dai media tedeschi. Poi però ieri è arrivata la sentenza del giudice del lavoro Ruth Lippa. Gli sportivi, sentenziato il giudice, vanno considerati come tutti gli altri lavoratori, proprio a partire, lo ricordiamo, dalla celebre sentenza Bosman del 1995. Hanno quindi diritto, ha sentenziato il giudice, dopo 2 anni di lavoro, a un contratto a tempo indeterminato. Non è quindi da considerarsi valida la scadenza del contratto, salvo che non sia il calciatore stesso a preferire un contratto più flessibile d'accordo con il club. Quindi questa sentenza potrebbe diventare storica, a meno che il Mainz non vinca il ricorso e quindi tutto torni come prima. Ma fino a quel punto brividi gelidi corrono lungo la schiena dei dirigenti calcistici. Certo, perché un contratto a tempo indeterminato per un Cristiano Ronaldo potrebbe mandare in fallimento una società. A meno che non accetti, non so, i 1500 euro al mese, allora lo accompagnerebbero volentieri alla pensione. Alla pensione. Grazie a Dario Ricci. L'aereo caduto in primo piano, il copilota voleva deliberatamente distruggere l'aereo, era lui che era rimasto solo all'interno della cabina di comando, si è chiuso dentro, il comandante è rimasto fuori, avrebbe addirittura tentato di sfondare la cabina. Sul decreto antiterrorismo è intervenuto il governo, sono state stralciate le norme che consentono un accesso quasi indiscriminato ai computer. Sulla corruzione il provvedimento è in Senato. Orlando, chi commette questo reato tradisce il paese. È morta nella notte una delle 10 persone ferite nell'attentata rapina ad un supermercato nel napoletano. Saluto Giovanni Galiotto, che è segretario generale piloti dell'ANPAC. Buongiorno Galiotto e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei gli ascoltatori. Riassumiamo un po' quello che sappiamo fino ad ora e che ha detto il procuratore di Marsiglia in una lunga conferenza stampa che chiedo a Paolo Corleoni se possiamo far alzare il volume. Come sentite è una conferenza stampa ancora in corso sulla vicenda dell'aereo caduto, l'aereo che l'altro ieri partito da Barcellona diretto a Düsseldorf si è schiantato in Provenza, a poca distanza, in realtà non molta distanza dal confine italiano in Francia. Ebbene, sarebbe stato il copilota con un gesto deliberato a distruggere l'aereo, avrebbe avviato la discesa dell'aereo dopo essersi chiuso all'interno della cabina di comando. Il comandante ha detto al pilota: ti lascio il comando, ed è andato in bagno. Questo è quello che sarebbe risultato dalla scatola nera, secondo quanto ha riferito il procuratore, e appunto sarebbe rimasto fuori, avrebbe tentato addirittura di sfondare la porta della cabina, naturalmente senza riuscirci. I passeggeri si sarebbero accorti all'ultimo momento di quello che stava avvenendo e avrebbero iniziato ad urlare. Allora, Galiotto, le vorrei chiedere questo innanzitutto. Da quel che sappiamo, teoricamente ci dovrebbero essere sempre almeno due persone nella cabina di comando, o mi sbaglio? Lei dice correttamente, nel senso che per tutte le operazioni di volo dell'aeromobile è prevista la presenza del comandante e del suo primo ufficiale a bordo. Ovviamente, qualora ci siano esigenze di natura diversa, così come banali esigenze fisiologiche, è previsto che uno dei due piloti possa alzarsi dal suo posto di comando, lasciando, come si dice in gergo, il comando al collega, e quindi questo è probabilmente in riferimento a quella comunicazione che è stata riportata dal procuratore della Repubblica. Quindi esca richiudendo alle sue spalle la porta blindata per evitare l'accesso di altre persone nella cabina di pilotaggio, e una volta terminato, esaurito il motivo per cui ha lasciato il posto da pilota, che possa rientrare in cabina. Quindi in sostanza quello che deve succedere è che un assistente di volo entra dentro nel momento nel quale il comandante va in bagno, per dirla molto brutalmente. Diciamo che non è completamente corretto quello che dice, perché premesso che ogni compagnia adotta procedure diverse, ma l'ingresso dell'assistente di volo, per quanto mi è dato sapere, in alcune compagnie è previsto solamente qualora non sia funzionante la videocamera che controlla l'ingresso alla cabina di pilotaggio. In quel caso il compito dell'assistente di volo è quello di verificare, quando viene chiesto l'accesso tramite lo spioncino, chi voglia entrare, e quindi confermare all'altro pilota rimasto a bordo di poter aprire la porta. Però non è una procedura prevista quella di avere un assistente a bordo al posto del pilota che si alzi in ogni condizione. Non c'è una possibilità di emergenza per il pilota, per il comandante in questo caso, ma può essere anche il copilota in altre situazioni, di accedere alla cabina di comando? Allora, premetto che questo è un argomento estremamente sensibile, perché si parla di procedure di sicurezza che non possono essere portate all'attenzione, diciamo, dei media o di eventuali malintenzionati. Però ho seguito la conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Marsiglia, e quindi diciamo mi limito a ripetere quello che lui ha detto. Sì, è assolutamente previsto, è prevista una procedura che possa permettere l'ingresso del pilota che è rimasto fuori dalla cabina di pilotaggio. Però, visto che il sistema nasce dopo l'attentato del 2011 per prevenire accessi indesiderati, è evidente che il pilota che è rimasto all'interno deve dare il consenso all'apertura. Qualora venga negato il consenso all'apertura, non c'è alcuna procedura che consente il rientro in cabina di pilotaggio. Tra l'altro stanno continuando ad arrivare le notizie, e ce n'è una importante. Secondo il procuratore non si è trattato di un attentato, non si è trattato di un attacco terroristico. Lo ricordiamo ancora una volta, come abbiamo detto in apertura, e il nome del copilota è stato finalmente diffuso oggi dopo tante ipotesi e anche tesi un po' complottistiche che sono circolate. Si chiama Andreas Lubitz, è perfettamente tedesco, nulla fa sospettare che si possa trattare di terrorismo islamico, come qualcuno aveva temuto all'inizio. Dice ancora il procuratore: non si tratta, non ho utilizzato la parola di suicidio, perché non si parla di suicidio quando si portano alla morte 150 persone. C'è un'altra domanda che le voglio fare, che è questa. Poco fa le agenzie hanno mandato in giro un'intervista con un pilota che ha pilotato anche degli A320. Lo stesso procuratore ha detto il copilota ha avviato la discesa. Perché questo è un modo di fatto per avviare, per evitare le correzioni di rotta automatiche che sennò l'aereo avrebbe messo in campo. È così in effetti? Ma diciamo che è una spiegazione un po' superficiale, se mi permette, nel senso che normalmente tutto il piano di volo, sia sul piano orizzontale, quindi la strada per andare a destinazione, sia sul piano verticale, quindi le salite e le discese, viene inserito all'interno dei sistemi di controllo automatico, e quindi i piloti, il pilota automatico che è asservito a questi sistemi, governa l'aeroplano. È evidente che in qualunque momento il pilota senta la necessità o abbia voglia di scendere da una data quota piuttosto che salire, lo può fare o tramite modificando le impostazioni all'interno dei computer nei quali aveva messo la rotta precedentemente, oppure in alternativa lo può fare, diciamo, manualmente, nel senso che può impostare una quota e dare l'ordine all'aeromobile di scendere. Sono entrambe modalità comunque di gestione attraverso il pilota automatico. In alternativa il pilota potrebbe completamente disconnettere il pilota automatico e gestire l'aeroplano a mano come se fosse, diciamo, un Cessna, ecco, per renderlo comprensibile a tutti. Però diciamo che non è un problema e non è significativo secondo me, perché un pilota che decide di scendere evidentemente lo può fare. Il fatto che scelga una modalità piuttosto che un'altra evidentemente non costituisce secondo me in questo caso un elemento essenziale. Così come, se mi permette una riflessione su quanto lei ha detto precedentemente, credo che, visto che il pilota, il copilota aveva 600 ore, aveva comunque esperienza sull'aeroplano, però l'immaginarsi un suicidio secondo me lascia ancora spazio e margine a ulteriori approfondimenti, che un pilota appena entrato in compagnia con pochissima esperienza, ma sicuramente un immenso entusiasmo, possa immaginare ed eseguire una cosa così, oltretutto durata 8 minuti, quindi con tutto il tempo per riflettere su quello che si sta facendo, mi lascia molto molto perplesso. La ringrazio, grazie a Giovanni Galiotto, segretario generale piloti dell'ANPAC, che è l'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile, anche per la sua chiarezza. Vedremo che cosa emergerà. Qualcuno ci scrive via SMS: ma basta nascondere che si tratta di terrorismo. Guardi, qua non si tratta di nascondere o meno, semplicemente il procuratore di Marsiglia ha detto che al momento non ci sono indicazioni che si tratti di un attacco terroristico. Il nome e la provenienza dell'uomo è perfettamente tedesca. Più di questo non possiamo dire. Se emergeranno altri dettagli non staremo certo qua a nasconderveli, perché il nostro mestiere è esattamente questi dettagli, di tirarli fuori. Colonnello Edoardo Moro, comandante di gruppo del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. L'abbiamo chiamata perché oggi avete messo in piedi una grossa operazione che ha riguardato il gasolio, un contrabbando per 4.000 tonnellate addirittura, esatto, di gasolio, con un'operazione che ha coinvolto 6 paesi. Come funzionava? E soprattutto le chiedo, colonnello, perché tutti noi normalmente facciamo gasolio dal distributore, in che mercati girava questo gasolio? Sì, allora abbiamo appena concluso da pochissime ore questa operazione vasta su tutto il territorio europeo, in collaborazione con le autorità di polizia dei paesi coinvolti, quindi Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Malta. Stiamo parlando di un fiume di gasolio introdotto clandestinamente in Italia, caricato in Germania e poi destinato a una rete capillare di acquirenti sul territorio italiano, sostanzialmente grossisti del settore che poi lo ridistribuivano, e poi prevalentemente società di autotrasporto che quindi incameravano direttamente il prodotto per rifornire i propri mezzi di trasporto. Non abbiamo al momento evidenze di impiego di questo carburante clandestino all'interno delle pompe tradizionali, quindi dei distributori di carburante dedicati ai cittadini, insomma ai normali consumatori finali. C'è anche una discreta quantità di evasione, no, in tutto? Assolutamente ciò. Sì, abbiamo appena finito di quantificare attraverso la documentazione che abbiamo acquisito con una squadra investigativa comune che ha lavorato, quindi i nostri finanzieri che hanno lavorato a stretto contatto con la polizia tedesca. Stiamo parlando di 28 milioni di litri in 2 anni di gasolio per autotrazione clandestinamente introdotto in Italia. C'è tutta una rete di società di comodo che simulavano l'acquisto del prodotto e lo avrebbero destinato a Malta e Grecia. In realtà il prodotto era in transito in Italia e in Italia si fermava. Poi la documentazione veniva completamente distrutta. Grazie al colonnello Edoardo Moro, comandante di gruppo del nucleo di polizia tributaria di Roma. È stato il copilota a far precipitare l'aereo in Francia, l'aereo che volava della Germanwings, che volava tra Barcellona e Düsseldorf, è rimasto da solo in cabina, si è chiuso dentro e ha avviato la discesa, un gesto deliberato dunque, dice il procuratore, ma nessun segnale al momento che si tratti di terrorismo. Era un 28enne, il copilota, di origine tedesca. Sul decreto antiterrorismo il governo è intervenuto, sono state stralciate le norme che consentono un accesso quasi indiscriminato ai computer. Morta nella notte una delle 10 persone ferite nell'attentata rapina ad un supermercato nel napoletano. Ed aerei nell'Arabia Saudita, dell'Arabia Saudita nello Yemen, rabbia dell'Iran che chiede la cessazione immediata. Ci rimangono pochi minuti, giusto il tempo innanzitutto di andare a Napoli per parlare di quello che è successo in questi giorni. Prima quelle immagini terrificanti dei clan che spadroneggiano a Ponticelli con spari per strada, poi ieri la rapina in un supermarket commessa tra l'altro da due carabinieri. Ernesto Magorno è un deputato del PD, è membro della commissione bicamerale antimafia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Ha presentato un'interrogazione su questo lei? Sì, con il collega Gelli, insomma, siamo senza parole rispetto a quello che abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo ascoltato. Ci sono seri problemi di ordine pubblico, di tenuta dell'ordine pubblico in quella città che già è martoriata sotto moltissimi altri aspetti, prima tutta la questione dell'occupazione, della disoccupazione. Però credo che la classe politica non può rimanere muta e sorda di fronte a quello che sta accadendo in questa città. E avete chiesto al prefetto di venire? Quindi, sì. Certo, perché io credo che sì. Il prefetto ha una responsabilità sulla tenuta dell'ordine pubblico nella città di Napoli, se ci sono da chiedere da parte del Ministero dell'Interno, del governo, delle spiegazioni, lei dice bisogna è il prefetto che le deve dare. La ringrazio e scusi per il poco spazio. Ernesto Magorno, deputato del PD, componente della commissione antimafia. In studio con me è Marta Cagnola, o quel che ne resta a causa del raffreddore. Non ho tantissima voce per parlare noi. Del Museo delle Culture che si apre oggi a Milano. Nasce finalmente uno spazio che la città ha desiderato, sognato in realtà da tanti anni, e Milano l'ha aspettato da molti anni. Oggi nasce il MUDEC, Museo delle Culture. È nell'area ex Ansaldo, via Tortona. Si parte con due mostre: Africa, la terra degli spiriti, e Mondi a Milano, che è molto interessante. È un viaggio attraverso le mostre con cui il capoluogo lombardo ha portato le culture extraeuropee all'attenzione del grande pubblico. E in momenti di Expo qualcosa dovrebbe suonarci. Sarà gestito dal Comune di Milano nella parte espositiva permanente e dal gruppo 24 ore cultura per la parte espositiva temporanea. La parte espositiva permanente sarà a regime dal prossimo ottobre, ma in arrivo anche iniziative per ragazzi col MUDEC Junior, la MUDEC Academy con una sede della Business School del Sole 24 Ore e la collaborazione con le associazioni che si occupano di multiculturalità come l'associazione Città Mondo. Da dire che oggi è il giorno della grande festa, questa sera una sorta di notte bianca col museo aperte, ma non è il giorno delle polemiche, lo ha sottolineato l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, perché lo sappiamo, l'architetto Ciperfield aveva contestato la realizzazione del suo progetto, ma un gruppo, oggi è stato annunciato, è allo studio per analizzare le eventuali difformità e tutto si risolverà al più presto. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. I ringraziamenti: Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. La trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra pochissimo con GR24.